Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta. Focus Economia 17.05, ben trovati da Vincenzo Miglietta. Ieri puntata dedicata in larga parte ai dati del PIL diffusi dall'Istat, con una crescita, lo ricordiamo, nel secondo trimestre che non si vedeva anno su anno dal 2011, con un più 1,5%, dati che alla fine hanno pesato in positivo sull'andamento di Piazza Affari, soprattutto di Piazza Affari. Oggi occhi puntati su Banca Centrale Europea e Federal Reserve. Da una parte la pubblicazione dei verbali dell'ultimo incontro dell'Istituto di Francoforte, che hanno evidenziato la volontà di perseguire ancora l'attuale strategia pro-inflazione e i contemporanei timori di un rialzo eccessivo dell'euro. Dall'altra le divisioni all'interno proprio della Banca Centrale Americana sulla tempistica del rialzo dei tassi di interesse. Perderebbe quota allora la probabilità che vengano alzati entro l'anno in corso. Atteggiamenti questi però che i mercati oggi non sembrano apprezzare. Diamo allora un rapido sguardo alle piazze internazionali. Partiamo proprio da Wall Street. Dow Jones in questo momento meno 0,35%. Standard & Poor's 500 meno 0,39%, Nasdaq meno 0,82%. Veniamo alle borse europee. A Milano con il FTSE MIB meno 0,56% a 21.862 punti. Per quanto riguarda i migliori e i peggiori sempre del FTSE MIB, allora i migliori Moncler, ricordati, Mediaset, Campari e Iux; i peggiori UbiBanca, Salvatore Ferragamo, Fineco Bank, Banco BPM e Fiat Chrysler Automobile. Per quanto riguarda i titoli più scambiati, Intesa San Paolo, Fiat, Unicredit, Banco BPM, Eni, Enel e Atlantia, questi i titoli più scambiati. Gli altri listini europei: DAX Francoforte in questo momento meno 0,33%, Londra FTSE 100 meno 0,61%, Parigi CAC 40 meno 0,46%, il cambio euro su dollaro 1,1735, di fatto in linea rispetto alla giornata di ieri. E lo spread poi dei titoli di Stato: BTP nei confronti del Bund tedesco a 159,80 punti, più 0,88%. Tra gli altri temi di oggi di Focus Economia, attenzione ancora agli Stati Uniti, malumori tra i vertici delle grandi aziende americane per le quali l'amministrazione Trump non farebbe bene all'economia, e poi la concorrenza tra le grandi piattaforme online nella corsa alla produzione di contenuti per lo streaming, di fatto per la web TV. Scendono in campo dopo Amazon anche Facebook ed Apple, quest'ultima addirittura con un budget iniziale da $1 miliardo. Infine in Italia faremo il punto sulla vicenda di Banca Etruria. Questa dunque la nostra scaletta. Potete scriverci al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Focus Economia o sul sito di radio24.it. Passiamo allora alle notizie in breve. Partiamo dalle materie prime. L'oro più 0,8% a $1,287 l'oncia, il petrolio più 0,2% a $46,9 il barile. Il clima che cambia e le conseguenze economiche. Quello appena trascorso è stato il luglio più caldo a livello mondiale dal 1880, ossia dall'inizio delle misurazioni moderne della temperatura. A dirlo sono i dati preliminari diffusi dal Goddard Institute for Space Studies della NASA. Stando all'ente americano, il luglio 2017 è statisticamente legato a quello del 2016 come il luglio più caldo degli ultimi 137 anni. Il mese scorso scorso la temperatura globale è stata di 0,83 gradi centigradi più alta della media, in linea con un più 0,82 gradi registrati nel luglio del 2016. La cifra, comunica il GIS, deriva dai rilevamenti di 6.300 stazioni meteorologiche sparse per il mondo, oltre che dai dati sulla temperatura superficiale degli oceani misurati da navi e boe e delle informazioni provenienti dalle stazioni di ricerca in Antartide. L'economia internazionale e la produzione industriale degli Stati Uniti a luglio è cresciuta per il sesto mese consecutivo, anche se meno delle previsioni, secondo quanto reso noto dalla Federal Reserve. Il mese scorso la produzione industriale è salita dello 0,2% dopo il rialzo dello 0,4% di giugno. Gli analisti attendevano un rialzo dello 0,3%. Rispetto al mese precedente, l'utilizzo della capacità degli impianti è sceso dello 0,1% al 76,6%, sotto il 76,7 previsto e corrispondente al dato di giugno. Prima della recessione il dato era solitamente oltre l'80%. Ora il super indice dell'economia, sempre Stati Uniti. A luglio il super indice del Conference Board, gruppo di ricerca privato, è salito dello 0,3% a 128,3 punti, come previsto dagli analisti. Il dato era salito dello 0,6% a giugno e dello 0,3% a maggio. Scomponendo il dato, la componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,3% a 115,7 punti, mentre quella sulle aspettative future è aumentata dello 0,1% a 124,8 punti. Profitti in ribasso nel secondo trimestre per Walmart, che ha comunque superato le previsioni. Il colosso delle vendite al dettaglio ha registrato un utile di 2,90 miliardi di dollari, 96 centesimi per azione, in ribasso dai 3,78 miliardi, 1,21 dollari per azione dello stesso periodo dell'anno scorso. Escludendo le voci straordinarie, i profitti adjusted sono stati di 1,0 dollari per azione, un centesimo in più rispetto alle previsioni degli analisti. Il fatturato è salito da 120,9 a 123,4 miliardi, sopra i 122,8 miliardi attesi dal consensus. Le vendite comparate, quelle nei negozi aperti da almeno un anno, sono salite dell'1,8%, mentre il traffico è cresciuto dell'1,3%. Le vendite e-commerce di Walmart sono aumentate del 60%. E sin qui dati per quanto riguarda gli Stati Uniti. Veniamo a parlare della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea. Per quanto riguarda la Federal Reserve, sembrerebbe spaccata nell'interpretare la tendenza dell'inflazione. Da una parte chi vede il dato piombare a livelli preoccupanti al punto da invocare cautela sull'aumento dei tassi di interesse, ma dall'altra la preoccupazione che ulteriori rinvii sull'aumento dei tassi possa spingere l'inflazione verso impennate pericolose, e quanto emerge dalle minute degli incontri di luglio. E sarebbero forti le pressioni proprio all'interno della Federal Reserve per un annuncio già il mese scorso circa l'imminente riduzione dei suoi bond, quindi sarebbero state molto decise queste pressioni. E quanto emerge sempre dalle carte, dalle minute degli incontri di luglio, pressioni poi frenate con la Fed che ha successivamente segnalato un annuncio da attendersi relativamente presto, durante il meeting del mese prossimo, secondo le aspettative dei mercati. Quindi vediamo come la Fed di fatto sia spaccata con le decisioni rinviate ai prossimi mesi. Stesso atteggiamento all'interno della BCE. I verbali del consiglio direttivo della BCE suggeriscono che l'Euro Tower stia valutando un approccio più flessibile rispetto al passato nel determinare l'entità dell'acquisto di asset. Questo potrebbe tradursi in una più limitata, viene chiamata forward guidance, ovvero comunicazioni delle intenzioni future, ad esempio sulla durata degli acquisti, rendendo il flusso dei dati macroeconomici ancora più importanti nel definire la politica monetaria. Questo è quanto scrivono gli economisti di Bloomberg analizzando i verbali di luglio della BCE. I due economisti sottolineano il passaggio dei verbali in cui si afferma che per il futuro il consiglio direttivo ha bisogno di guadagnare più spazio e flessibilità nell'aggiustare la politica monetaria e il grado dell'accomodamento, se e quando necessario, in entrambe le direzioni. Dalla BCE passiamo all'Eurostat, ovvero l'inflazione per quanto riguarda l'Europa a 19. L'inflazione annuale dell'Eurozona è rimasta stabile a luglio con l'1,3% come a giugno. Lo comunica Eurostat, che conferma così la stima flash di fine luglio. Nell'Unione Europea nel suo complesso il tasso registrato è stato dell'1,5%, ugualmente stabile rispetto al mese precedente. Un anno fa l'inflazione era allo 0,2%, sia nei paesi a 19 che nell'Europa 28, anche in Italia i dati sono in linea con l'Eurozona, con un tasso stabile all'1,2%. Nel mese di giugno l'area euro ha registrato un avanzo commerciale di 26,6 miliardi di euro con il resto del mondo, in contrazione rispetto ai 28,9 miliardi di euro registrati nel luglio 2016. Sono questi sempre dati Eurostat. Eurostat specifica poi che secondo la prima stima le esportazioni di beni hanno toccato i 187,2 miliardi di euro, con un incremento del 3,9% rispetto a giugno 2016. Le importazioni dal resto del mondo sono ammontate a 160,7 miliardi di euro, in aumento del 6,2% rispetto al giugno dello scorso anno. Andiamo velocemente verso il nostro primo approfondimento. Parliamo però ancora di Brexit. Non ci sarà l'obbligo di un visto per i viaggiatori europei che arrivano nel Regno Unito dopo la Brexit, è la linea proposta dal governo britannico. Secondo la BBC dovranno invece richiedere un permesso quanti vogliono lavorare, studiare o trasferirsi nel paese. Il record intanto di lavoratori europei proprio nel Regno Unito nonostante la Brexit, secondo i dati pubblicati dal Financial Times, hanno raggiunto i 2,37 milioni dopo un aumento di 126.000 nel periodo aprile-giugno 2017 rispetto all'anno scorso. Stando al giornale della City, il numero è salito soprattutto per i lavoratori in arrivo da Romania e Bulgaria, ma il tasso di crescita inizia a dare segni di rallentamento rispetto al passato, in particolare per chi arriva dai 14 paesi che sono da più tempo membri dell'Unione Europea, come la Germania, Italia, Spagna e Francia. Potrebbero slittare sempre i tempi della Brexit. C'è la possibilità che la nuova sessione dei negoziati tra Gran Bretagna e Unione Europea non inizi prima di Natale, quanto riporta Sky News citando alcuni ministri del governo di Theresa May, senza farne il nome, secondo cui i tempi potrebbero slittare. Una serie di questioni infatti sono di difficile soluzione, a partire dal cosiddetto conto del divorzio, rispetto al quale Londra avrebbe ancora una serie di riserve. Sentita a questo proposito, la Premier May non ha risposto direttamente alla domanda, ma ha comunque ammesso che c'è ancora molto da fare nelle trattative. Apple fa sul serio con le produzioni audiovisive. Dopo aver sfornato un paio di programmi non molto apprezzati dal pubblico, la compagnia di Cupertino ha deciso di piazzare un investimento massiccio nel settore dei contenuti originali, $1 miliardo, secondo il Wall Street Journal, con cui produrre fino a 10 serie TV in grado di competere con i successi di Netflix, Hulu e Amazon. Il budget è nelle mani di Jamie Ehrlich e Zach Van Amburg, due ex dirigenti di Sony Pictures, a cui si devono titoli fortunati come Breaking Bad e The Crown. Due mesi fa sono stati arruolati dalla mela, per conto della quale hanno già iniziato a incontrare agenti di Hollywood. I costi dei programmi a cui mira Apple potrebbero spaziare dai $2 milioni a puntata per serie TV che rientrano nel genere della commedia, a $5 milioni per le serie drammatiche. E con questa notizia chiudiamo le nostre headlines e passiamo al nostro primo approfondimento. Dicevamo di Apple, dunque Stati Uniti, e rimaniamo proprio negli Stati Uniti perché Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia via Twitter lo scioglimento di due forum economici presso la Casa Bianca, composti da diversi amministratori delegati, dopo le critiche in seguito ai commenti sui fatti di Charlottesville. Invece di fare pressione sulle persone di questi due forum, li sciolgo entrambi, grazie a tutti, ha scritto Trump. Nelle ultime ore una serie proprio di amministratori delegati avevano lasciato i forum in segno di protesta. Parliamo di questa evoluzione nell'amministrazione Trump con il collega Marco Valsania, collega del Sole 24 Ore in collegamento da New York. Ciao Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buona serata a voi. Ecco Marco, questi sono gli antefatti quotidiani relativi alla gestione Trump, però lo scriviamo, lo scrivete sul Sole 24 Ore, ma lo scrivono anche altri giornali internazionali. Sembrerebbe esserci molta freddezza tra il mondo dell'economia americano e l'amministrazione attualmente alla guida della Casa Bianca. Quest'ultimo episodio confermerebbe questo allontanamento e i timori che la guida Trump non faccia bene all'economia americana? Sì, sicuramente freddezza è il termine giusto e forse anche di più a questo punto. Ci sono state delle rotture aperte, crescenti, un disagio diciamo che già esisteva, scoperto e esploso proprio nell'occasione della polemica, della durissima polemica sui fatti di Charlottesville e sulla polemica sulla presa di posizione di Donald Trump su questi fatti, cioè la reticenza di Trump nel condannare suprematisti bianchi, Ku Klux Klan e neonazisti, diciamo, che hanno istigato la violenza a Charlottesville e che hanno anche causato un morto in un episodio che è stato definito di terrorismo domestico da gran parte dell'opinione pubblica americana e degli opinion makers americani. Quindi il disagio che già maturava nella corporate America e che però finora era rimasto un po' sotto la superficie, con l'idea di poter influenzare l'amministrazione in sede di consigli di business, in sede di comitati diciamo legati al rilancio manifatturiero piuttosto che allo sviluppo di strategie economiche future. Ecco, questa speranza è un po' morta a Charlottesville e un numero crescente di aziende ha preso posizione di fronte a quella che ha considerato come un fallimento di leadership, un grave fallimento di leadership morale e politica da parte della Casa Bianca, uscendo o preannunciando l'uscita da questi consigli, certo. Anche sia per ragioni morali ma alla fine politiche ma anche di business, perché le aziende alla fine fanno anche un calcolo normale di business, cioè il rischio di inimicarsi la Casa Bianca è diventato inferiore al rischio di inimicarsi una grande maggioranza della popolazione americana e comunque degli investitori, degli azionisti che sugli episodi di Charlottesville hanno preso posizioni nettamente diverse rispetto a quelle di Trump. Ecco, da qui lo scioglimento dei comitati, cioè Trump ufficialmente, come spesso fa, ha preteso di scioglierli lui, ma in realtà erano già morti per le defezioni. Ecco, questi due comitati, Marco, avevano un valore simbolico o avrebbero avuto comunque un ruolo invece veramente operativo nell'orientare i 4 anni della guida Trump? Ma erano nati nella speranza, diciamo, degli amministratori delegati, delle grandi aziende, come forum con una capacità anche operativa di influenzare le decisioni, di discutere decisioni e strategie vere. In realtà si erano già trasformati progressivamente in casse di risonanza della Casa Bianca senza in realtà un ruolo particolare. Si erano riuniti pochissime volte, una o due volte addirittura, perché comunque Trump, piuttosto che alle riunioni diciamo di sostanza, preferiva le photo opportunities degli incontri con i CEO in cui poteva, diciamo così, esternare a suo piacimento, quindi già in realtà si erano rivelati sempre meno dei veri forum e sempre più così un po' delle pretese di comitati senza un ruolo effettivo. Ecco, ricordiamo Marco che in quei comitati, ce lo hai ricordato tu anche nelle scorse puntate, c'era il gota della Corporate America. Facciamo un esempio: il CEO di General Motors, di JP Morgan, di BlackRock, ha fatto un passo indietro l'amministratore delegato del colosso farmaceutico di Merck Pharma, Kenneth Frazier. È comunque questo un mondo dei CEO e delle grandi corporate che non credo che abbia proprio tirato la volata nella campagna elettorale a Trump, e sembrerebbe quindi adesso un po' vendicarsi Trump rispetto a questi grandi poteri. Ma sicuramente una buona parte, una parte significativa del mondo corporate americano era stata molto come molti, diciamo, policy maker anche erano stati molto cauti con Trump fin dall'inizio, però gli avevano dato anche dopo l'elezione credito e la possibilità e diciamo la possibilità di riallacciare i rapporti, e una parte era comunque parsa vicina a lui, numerosi finanzieri, anche alcuni grandi CEO che in questa occasione però hanno rotto con lui, per cui ecco, diciamo che a questo punto la partita è più aperta che mai, cioè fino a che punto Trump potrà continuare su questa strada di isolamento di fatto e di un isolamento, diciamo, in cui però lui ha comunque una grande forza, la forza della presenza degli Stati Uniti, e fino a che punto invece queste rotture, queste critiche sempre più forti sia da parte del mondo del business che anche da parte di una significativa fetta dell'establishment politico anche repubblicano invece si faranno sentire e paralizzeranno o comunque metteranno ulteriormente in crisi la sua presidenza, che ricordiamo è molto a corto di successi politici che lui ne dica, soprattutto sul fronte dell'economia, delle politiche economiche, dove ricordiamo non è riuscito a far passare finora praticamente nulla. Breaking news. E vi interrompiamo però dalla redazione perché c'è stato un furgone che ha travolto diverse persone sulla Rambla a Barcellona. Il viale è stato transitato ed evacuato, è una delle strade più affollate della città spagnola. Ci sono diverse persone a terra, quantomeno feriti. Il conducente ha abbandonato il veicolo e sarebbe fuggito a piedi. La polizia catalana per ora non vuole parlare di attentato. Chiusa comunque la zona, sul luogo stanno accorrendo ambulanze e mezzi di soccorso. Si cerca, dicevamo, il conducente di questo furgone bianco, e caccia all'uomo. Cercheremo naturalmente di aggiornarvi appena possibile. Focus Economia. E riprendiamo la nostra puntata di Focus Economia. Abbiamo ascoltato di questa breaking news a Barcellona. Ancora con noi Marco Valsania, collega del Sole 24 Ore da New York. Stiamo affrontando le difficoltà che sta trovando Trump nella sua guida alla Casa Bianca, un po' il passo indietro delle grandi corporate economiche dopo i fatti di Charlottesville. Marco, stavamo dicendo dei grandi gruppi che girano le spalle a Trump, e Trump reagisce facendo, secondo me, l'occhiolino un po' al suo elettorato, perché se la prende per esempio con Amazon e dice danneggia i rivenditori che pagano le tasse, questo è proprio un invito al proprio elettorato, che è comunque il grande commercio ma comunque frammentato degli Stati Uniti. Sì, sicuramente Trump ha dimostrato di voler usare un po' la Casa Bianca un po' come una clava anche nei confronti di singole aziende, anche lì un comportamento molto insolito da parte di un presidente e dai critici definito assai poco presidenziale. Ha criticato per nome singole aziende in varie occasioni durante la sua presidenza, fino anche agli ultimi episodi. Tu ricordavi Amazon, ma vale la pena di ricordare che il primo diciamo ad andarsene dai consigli economici della Casa Bianca in questa occasione, nell'occasione della tragedia di Charlottesville, è stato Ken Frazier, come ricordavi, di Merck. Ken Frazier, che è amministratore delegato di Merck, è anche un afroamericano, era l'unico afroamericano uomo nei consigli, e che ha un passato nella propria famiglia di schiavitù, di sofferenza sotto la schiavitù. Ecco, Ken Frazier, dopo essersi dimesso, diciamo, citando ragioni morali e politiche, ecco, Trump non ha pensato, non ha avuto di meglio da fare che attaccarlo direttamente, personalmente, dicendo che appunto non prendeva sul serio il suo lavoro e che adesso avrebbe dovuto occuparsi di abbassare i costi dei farmaci invece di pensare ad altre cose. Quindi, diciamo, Trump ha dimostrato ripetutamente e continua a dimostrare questa volontà e questo desiderio di vendette individuali nei confronti di quelli che considera i suoi avversari, una gestione così della leadership che sta facendo sempre più discutere. Ecco Marco, resta con noi, ci fermiamo per il meteo e poi abbiamo altre domande. Focus Economia. Di nuovo insieme Focus Economia, io sono Vincenzo Miglietta, siamo in collegamento con Marco Valsania, collega del Sole 24 Ore, corrispondente da New York. Allora Marco, un'ultima domanda relativa alla rimozione delle statue dei confederati, anche i nostri ascoltatori ce lo chiedono, al di là del merito della rimozione di queste statue, sembra un po' assurdo che avvengano durante l'amministrazione Trump e non siano per esempio avvenute durante l'amministrazione Obama, perché proprio in questo momento? Ma in realtà quello che è esploso adesso è un fenomeno che durava già da tempo. È da anni che si è sviluppato un movimento, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, cioè l'ex regione confederata, certo. Nella guerra civile, ecco, che si è sviluppato un movimento per rimuovere queste statue, spesso per togliere da piazze pubbliche, da luoghi pubblici, e portarle in musei. Questo è un movimento che riflette le modifiche nella società civile, di fatto, cioè l'allontanarsi da quell'era l'era legata, diciamo così, al razzismo istituzionalizzato e alla schiavitù, sì. e invece lo sviluppo di un sud americano più illuminato e progressista. Ecco, la rimozione di queste statue però è diventata l'occasione per tutta una serie di movimenti della cosiddetta alt-right, dell'estremismo di destra, nazisti, Ku Klux Klan, suprematisti bianchi, per riaffermare il loro ruolo soprattutto nel sud degli Stati Uniti e riaffermare una loro leadership così culturale e intellettuale in regioni del paese. È per questo che la presa di posizione di Trump è diventata particolarmente preoccupante ed è stata particolarmente criticata, perché in realtà non cade nel vuoto di un dibattito culturale accademico sul ruolo delle statue. Queste statue, la loro importanza risale non tanto a quello a cui si riferiscono, agli uomini che teoricamente celebrano il generale Lee o altri leader della Confederazione. Queste statue furono create e poste in luoghi pubblici non all'epoca della guerra civile, ma negli anni 20 e 30 del secolo scorso, e furono il modo in cui gli elementi più retrogradi del Sud americano cercarono di riaffermare certo, di legittimare una il razzismo e la segregazione istituzionalizzata che viceva in quegli anni. E quindi il significato politico di queste statue è molto chiaro ed è fuori da qualunque discussione, è in dubbio, è un significato assolutamente politico, assolutamente negativo. Da qui il movimento per rimuoverle, che appunto non è scoppiato, diciamo, adesso sotto Trump. Quello che è scoppiato sotto Trump è la protesta alla rimozione, che si è sentita legittimata dalle prese di posizione del presidente, che appunto rischiano di legittimare non un dibattito culturale, non un'eredità culturale, ma rischiano di legittimare ben altro, cioè le forze del Ku Klux Klan, le forze del neonazismo, le forze del suprematismo bianco, che improvvisamente si ritrovano un alleato estremamente influente. E lì si può discutere se si tratti di ignoranza da parte di Trump o di cinico calcolo politico, come suggerivi anche tu. Cioè, Trump ha dimostrato di essere disposto quasi a tutto per mobilitare la propria base elettorale più affidabile, cioè la base un po' dell'estrema destra. Ecco, però è un calcolo politico che potrebbe rivelarsi, oltre che cinico, anche estremamente pericoloso per il futuro del paese. E vedremo le prossime settimane l'evoluzione di questa vicenda. Grazie a Marco Valsania, collega del Sole 24 Ore da New York. Noi cambiamo argomento. Cambiamo argomento, ma restiamo sempre con uno sguardo verso gli Stati Uniti, perché prosegue la corsa all'oro delle grandi piattaforme online verso il mercato dei contenuti. Parliamo di streaming, di web TV, ai grandi colossi già operativi si potrebbero aggiungere Facebook, la Apple, con un budget iniziale di ben $1 miliardo. Ci aiuta a comprendere maggiormente l'evoluzione di questo settore il collega Francesco Prisco, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Francesco. Buon pomeriggio a tutti voi. Francesco, hai detto bene, è una vera e propria corsa all'oro dei contenuti video originali, quella a cui stiamo assistendo in quest'estate 2017. Ecco, è un settore molto ricco, perché vediamo che vi sono enormi budget a disposizione, ed è un mercato che è dominante negli Stati Uniti, ma che sta prendendo piede anche in Europa. Immagino che ognuno di noi conosca quantomeno una delle tante piattaforme, da Netflix ad Amazon, ed è un mercato in grande espansione. Cosa sta succedendo? Spiegaci. Succede che tutti fanno tutto, con spirito e modelli di business spesso molto diversi a seconda dei casi. L'ultimo, lo citavi prima tu, è quello di Apple. Pochi giorni fa il Financial Times ha fatto trapelare che Apple ha intenzione di investire $1 miliardo su 10 produzioni video originali. Non è la prima volta che si cimenta con operazioni di questo tipo, qualche volta gli è andata bene, vedi il caso di Carpool Karaoke, altre volte meno bene, vedi il caso di Planet of the Apps. Però Apple scommette forte, agganciando un treno che è già abbastanza nutrito. La settimana scorsa Mark Zuckerberg, il fondatore numero uno di Facebook, ha lanciato il servizio Watch, che in via sperimentale farà il suo debutto in alcune regioni degli Stati Uniti. Si tratta di una piattaforma di streaming, ma molto diversa da YouTube, che è la piattaforma di streaming per eccellenza di proprietà di Google. In questo caso Facebook investe direttamente in contenuti video originali e ha già messo sotto contratto dei talent importanti per quello che è il pubblico di riferimento del social media negli Stati Uniti. Parliamo di Jessica Alba, che a quanto pare condurrà un programma di salute e bellezza, o di Nev Schulman, che è un influencer molto potente in America. Hanno fatto accordi con la Lega Nazionale di Baseball. Insomma, Watch debutterà negli Stati Uniti, se avrà successo lo vedremo anche da noi. Ma il caso di scuola è quello di Netflix, però va fatta una distinzione molto netta, perché il modello di investimento di Facebook è qualcosa di assimilabile a come si muove Alphabet, cioè il gruppo che riunisce Google e YouTube. Cioè loro puntano a far crescere i ricavi dalla pubblicità online, pubblicità online che in America vale intorno agli $83 miliardi, e Facebook al momento ne intercetta il 20%, ma attraverso Watch potrebbe veder crescere ulteriormente questa sua quota di mercato. Quindi si rivolgono al mondo dei cosiddetti, quelli che conosciamo noi adesso, gli YouTuber. Assolutamente, cioè diciamo che gli YouTuber sono dei produttori di contenuto non professionali, che poi tendono a professionalizzarsi perché può riuscire redditizio. Loro hanno provato a mettere sotto contratto come youtuber, utilizzo impropriamente il termine perché, anzi forse dovremmo chiamarli watchers, certo, perché certo, ma è un termine che però comprendiamo su questa nuova piattaforma, sì. Quindi hanno provato o stanno provando a trasformare star del calibro di Jessica Alba e Nev Schulman in degli youtuber professionisti. C'è anche il caso di Amazon, che ha un budget di investimento stimato intorno ai 4,5 miliardi di dollari sui contenuti video originali. Lo fanno tutti, ma lo spirito è molto diverso. Cioè, il caso di Apple è più vicino, se vogliamo, a quello di Netflix o a quello di Amazon, perché loro puntano a ottenere ricavi anche dagli abbonamenti, cioè da chi poi pagherà un servizio per vedere questi contenuti. Ecco, Francesco, Francesco, scusami, inutile dire che questa concorrenza va ad erodere poi il mercato che è quello della televisione tradizionale, ovvero più abbonati ma peer-to-peer, ovvero su piattaforme on demand, vanno a cambiare anche l'aspetto sociale proprio della platea che si rivolge alla televisione, ovvero le serie TV sono vincenti rispetto ad un altro tipo di programmazione. Non c'è dubbio, siamo di fronte a una piccola rivoluzione copernicana del medium. Alla fine le serie TV sono un filone che va molto forte, la stessa Amazon sta per lanciare Black America, che è una risposta a un format della HBO Confederate, insomma torniamo sul tema post-guerra di secessione. Certo. Insomma, come dire, si assiste a una vera e propria rivoluzione copernicana sul medium. Grazie del tuo contributo, Francesco Prisco, collega del Sole 24 Ore, spazio alle strade. Breaking news. E torniamo ad aggiornarvi su quello che sta avvenendo a Barcellona, perché mentre la polizia catalana per ora non si sbilancia, sembra però sempre più chiaro che si sia trattato di un vero e proprio attacco sulle Rambla. Un furgone bianco, ricordiamo, è salito sul marciapiede centrale di quella che è la via più famosa e affollata di Barcellona, e prima di schiantarsi su uno dei chioschi è riuscito a colpire diverse persone che in questo momento sono a terra. Secondo i testimoni sarebbe stato un atto volontario, il furgone avrebbe cercato di andare addosso alla gente. Dicevamo, la polizia catalana non si sbilancia, secondo altre fonti però due persone armate sarebbero fuggite dal furgone, sarebbero ora rifugiate in un ristorante, avrebbero in mano anche degli ostaggi. Dicevamo, per il momento nessuna conferenza stampa, nessuna dichiarazione da fonti ufficiali, ma sempre più notizie anche di testimoni sul posto che si sia trattato di un vero e proprio attacco alla città spagnola. Questo quanto sappiamo fino ad ora, naturalmente vi aggiorneremo tra pochissimo anche in GR24. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia che ci condurrà poi al GR delle 18, dove potrete ascoltare ulteriori aggiornamenti sui fatti di Barcellona. Spazio ora ai mercati, grazie anche al contributo di Andrea Fontana, collega di Radio Core, Il Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio a te, Vincenzo. Andrea, allora facciamo il punto sui mercati internazionali e con un particolare focus su Milano. Sì, oggi è una giornata dominata dai temi, diciamo, delle banche centrali. Ieri sera sono stati pubblicati i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, emersa una Federal Reserve ancora spaccata sulla decisione di alzare o meno i tassi di interesse americani ancora una volta prima della fine dell'anno. Va detto che i mercati ci credono poco a questo ulteriore rialzo, e anche se settembre sarà probabilmente il momento decisivo per dire una parola chiara anche in vista delle mosse nei mesi successivi, questo i mercati ormai sembrano non più considerarlo, non più prezzarlo. Lo stesso invece sono a muovere i mercati è stata in particolare oggi la BCE, perché con i verbali della sua ultima riunione ha dato due segnali. Primo, ancora continuerà a perseguire un andamento più forte dell'inflazione, cosa che nonostante il programma di acquisto titoli non sta avvenendo. In secondo luogo, un po' di preoccupazione perché per la forza dell'euro e l'eventuale ulteriore rafforzamento che l'euro potrebbe avere nel caso in cui la BCE passasse a una strategia monetaria di normalizzazione, quindi di riduzione degli acquisti dei titoli e poi in prospettiva di tassi non più a zero. Ne ha risentito l'euro, che è sceso anche sotto 1,17 contro dollari, e ne hanno risentito soprattutto le banche, perché normalmente sono suscettibili e soffrono uno scenario finanziario con tassi di interesse a zero o sotto zero. Quindi la prospettiva che i tassi tornino a salire in un tempo non ancora definito e ancora più lontano ha fatto ancora di più realizzare sui titoli bancari, tant'è vero che il settore è stato il peggiore in Europa, ha perso l'1,5% e Milano è stata con Madrid la peggiore in Europa, proprio perché caratterizzata dal calo 2%, UbiBank, Unicredit, Banco BPM ha perso l'1,6%, quindi il calo del settore dei bancari ha penalizzato Milano. Quindi male le banche in funzione dei verbali della Banca Centrale Europea, correzione anche di Fiat Chrysler Automobile, però ricordiamo i rialzi dei giorni scorsi. Sì, oggi abbiamo assistito a due correzioni di due titoli che erano stati protagonisti in positivo degli ultimi giorni. Fiat Chrysler e Xor, per quanto riguarda la vicenda dell'interesse dei gruppi cinesi per un eventuale acquisto di Fiat, oggi è arrivata una seconda smentita o comunque una seconda presa di posizione da parte di un gruppo cinese, questa volta è Dongfeng, che è già azionista di un grande gruppo dell'auto, cioè il gruppo Peugeot Citroën, con il 14%. Dongfeng ha detto di non avere piani per Fiat Chrysler, esattamente come aveva fatto ieri Geely Automobiles. Quindi sono scattati i rialzi su Fiat Chrysler e sul suo primo azionista, cioè Xor, che ha perso quasi il 2%, rialzi anche su Atlantia, meno 1,1%, che ieri era stata la protagonista della giornata di borsa, quando dalla Spagna erano arrivate le voci secondo cui i gruppi spagnoli non stanno riuscendo a realizzare, a costruire un'alternativa per acquistare Abertis, la società delle autostrade e delle infrastrutture che è nel mirino di Atlantia, che ha già annunciato qualche mese fa il lancio di un'offerta pubblica sul mercato per acquistare Abertis. Un tema che abbiamo affrontato ieri è quello di Air Berlin sulla scia delle sue difficoltà economiche, quindi sulla possibilità di un acquisto da parte di Lufthansa. Air Berlin, come è andato, Andrea? Oggi è rimbalzato dopo la forte caduta che aveva interessato il titolo nei giorni in cui era stata annunciata l'insolvenza e la necessità dello Stato di intervenire con un prestito ponte da 150 milioni. Ci sono ancora dubbi ovviamente innanzitutto sull'efficacia di un eventuale intervento dello Stato per assicurare l'operatività della compagnia, ma soprattutto si stanno facendo invece passi avanti. Qualche fonte finanziaria ha riferito che già la prossima settimana potrebbe esserci un primo passo in avanti con alcuni aerei, una buona parte della flotta, 90 apparecchi di Air Berlin che potrebbero passare a Lufthansa. Questo ha portato il titolo a reagire, ha guadagnato quasi il 10%, anzi il 9,7%, praticamente 10% a Francoforte, titolo che necessariamente sarà sballottato nei prossimi giorni dalle notizie positive o negative su questo intervento, che assume anche la forma del cosiddetto spezzatino con i vari asset che potrebbero ad andare a soggetti diversi. Andrea, abbiamo dato notizia della commessa di Saipem in Kuwait da 850 milioni e il suo andamento oggi? Beh, Saitem è stata sicuramente tra i migliori questa mattina, e il titolo è stato tra i più positivi, è arrivato anche a 3,33 euro, e poi però ha sofferto nel pomeriggio quello che è stato l'andamento generale delle borse, e quindi ci sono stati buoni rallizi, ha chiuso comunque con una flessione dello 0,4% inferiore a quella dell'indice, che ha perso quasi l'1%, ma certamente diciamo questa correzione del pomeriggio non ha favorito quella che è una performance un po' più brillante, visto la commessa di cui tu parlavi in Kuwait, che solitamente contratti di questo tipo costituiscono indicatori importanti per quanto riguarda Saipem, soprattutto perché gli operatori hanno molte perplessità, e quindi sulla capacità di Saipem di vedere crescere il proprio portafoglio ordine nel breve termine, quindi queste notizie solitamente danno fiducia e danno anche visibilità alla realizzazione degli obiettivi. Bene, e con Saipem chiudiamo qui la pagina dedicata ai mercati, grazie ad Andrea Fontana, collega di Radio Corriere del Sole 24 ore, e ci avviamo in chiusura di Focus Economia con il nostro ultimo approfondimento. Ultimo approfondimento dedicato a Banca Etruria, un argomento delicato che affrontiamo con Sara Monaci, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Sara. Buon pomeriggio. Sara, ricordiamo allora che ad ottobre vi sarà il via al processo principale sul crack di Banca Etruria. Ci vuoi ricordare e contestualizzare questa notizia? Sì, ci sono due filoni principali a questo punto, dopo il fallimento di Banca Etruria. Uno riguarda appunto il caso di bancarotta fraudolenta, che al momento vede oltre 10 indagati. Il processo inizierà in autunno e si tratta per lo più di un filone chiuso. La procura ha constatato 300 milioni di distrazioni che avrebbero poi provocato appunto la bancarotta. Parallelamente sta andando avanti ancora l'inchiesta, che non è stata chiusa, sulla frode, sulla truffa aggravata che riguarda la vendita delle famose obbligazioni subordinate, certo, che ricorderete sono quei prodotti che poi a un certo punto si sono proprio dissolti nelle mani di alcuni clienti, e per alcuni si teme proprio il fatto che sia stata messa in atto una vera e propria truffa organizzata con alcuni dirigenti che cercavano di vendere i prodotti a chi non aveva il profilo giusto, ovvero persone che non avevano competenza, che non riuscivano a capire cosa stavano acquistando, mettendo a rischio in alcuni casi addirittura quasi tutto, se non tutto, il proprio conto corrente. Molte persone erano anche anziane, quindi chiaramente ce lo in questo caso bene, ecco. Intanto e questi due filoni, appunto, uno è chiuso, inizierà il processo, l'altro è ancora in fase di indagine, ma anche lì la procura si sta velocizzando, sta andando avanti spedita. Ci sono tre figure, ancora non sappiamo chiaramente i nomi, ma ci sarebbero tre alti dirigenti, di questo si parla, che avrebbero proprio messo premi e incentivi con promesse di promozioni per chi proprio piazzava questi bond in modo più spregiudicato. Questo è l'inchiesta. Allo stesso tempo però si sta aprendo un filone molto interessante, sarebbe la prima volta che emerge da un'inchiesta sulle banche, sapete che in questi anni ce ne sono state diverse. Per la prima volta c'è un faro su Consob. Ecco, e questo forse è proprio l'elemento più interessante di giornata. Sì, perché finora si è parlato di Consob e di Banca Italia come parti della stessa indagine, aiutavano le indagini e via via sanzionavano. Cosa è successo? Recentemente, pochi giorni fa, la Consob ha inviato le sue sanzioni per falso in prospetto per un totale di 2,8 milioni. Sì. A questo punto però la procura si interroga: siamo proprio sicuri che Consob non sapesse nulla, perché queste sanzioni sono arrivate un po' tardivamente, per cui sarà bene valutare anche l'operato della Consob stessa, che era stata probabilmente già informata in realtà da Banca Italia, che sapete è l'authority che invece controlla l'operato delle banche, mentre Consob controlla i prodotti finanziari. Certo. Ecco, quindi in questo doppio tavolo, da una parte il prodotto finanziario, dall'altra la tenuta della banca, si potrebbe essere creata confusione oppure qualche negligenza, perché la sensazione è che Consob poteva già sapere qual è lo stato dell'arte, la debolezza. Quindi, certo Sara, quindi eventuali responsabilità della Consob saranno approfondite. Mi dispiace terminare qui questo nostro approfondimento, il tempo, come si suol dire, stringe. Grazie a Sara Monaci, collega del Sole 24 Ore, un ringraziamento a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, Alessandro Chiappini ed Andrea Roccabella in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta.